Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. Chiara, per fortuna, aveva perduto i sensi appena liberata. La principessa, che s'era girata per la camera senza toccar nulla, incapace di dare aiuto alla partoriente, voltava adesso il capo dal disgusto prodottole da quella vista. E le levatrici, la cugina, la cameriera si guardavano costernate, esclamando: «E chi vuol dare la notizia al marito?» Giusto il marchese, non udendo più nulla, chiamava: «Cugina! Donna Agata! Come va? Cugina! Ma non viene nessuno!» Fu donna Graziella quella che dovette andargli incontro e prepararlo al brutto colpo. «Cugino, di buon animo! Chiara è liberata!» «È maschio! È femmina! Cugina! Perché non parlate?» «Fatevi animo! Il signore non ha voluto! Chiara sta bene! Questo è l'importante!» Arrivò anche il duca verso sera a fare i suoi convenevoli, ma restò poco, giacché i giulente lo aspettavano giù, per riferirgli le ultime notizie intorno alle disposizioni del collegio. Benedetto pareva Garibaldi quando disse a Bixio: «Nino, domani a Palermo!» In casa di Chiara, quasi in segno di protesta contro quell'ultima pazzia del duca, s'erano riuniti tutti gli Uzeda borbonici, ad eccezione di Don Blasco, il quale, dopo la transazione dei nipoti, la conclusione del matrimonio di Lucrezia e la candidatura del fratello, pareva veramente impazzito. La famiglia era appena arrivata a palazzo che s'udirono di lontano suoni confusi, battimani, grida, squilli di tromba e colpi di gran cassa. Una dimostrazione di cittadini d'ogni classe con bandiere e musica, capitanata da giulente, veniva ad acclamare il primo deputato del collegio, l'insigne patriotta. E Benedetto, quasi fosse già in casa sua, spalancò il balcone. Allora il duca impallidì peggio del nipote. Egli doveva adesso parlare alla folla, aprire finalmente il becco, dire qualcosa. Afferratosi a Benedetto, balbettava: che cosa? Che devo dire? Aiutami tu, mi confondo!» «Dica che ringrazia il popolo della lusinghiera dimostrazione, che sente la responsabilità del mandato, ma che consacrerà tutte le sue forze ad adempierlo, animato dalla fiducia, sorretto!» Ma poiché le grida raddoppiavano, egli lo spinse verso il balcone. Giallo come un morto, afferrato alla ringhiera con tutte e due le mani, con la vista ottenebrata, immobile in tutta la persona, l'onorevole cominciò: «Cittadini!» Ma la voce si perdeva nel tumulto vasto e incessante, nel corso assordante degli applausi. L'attitudine del deputato non faceva capire che egli volesse discorrere. Benedetto alzò un braccio. Come per incanto tenne silenzio. «Cittadini, il 18 febbraio 1861, tra i rappresentanti della nazione risorta, noi avremo la somma ventura di veder sedere il duca d'Oragua. Viva il nostro deputato! Viva l'Italia!» Uno scroscio finale d'applausi rintronò e la folla cominciò a rimescolarsi. Una seconda volta, con voce strozzata, senza un gesto, senza un moto, il duca aveva cominciato. «Cittadini!» Ma giù non udivano, non comprendevano che egli fosse per parlare. Quando rientrò, il principe, liberato anche lui dall'incubo della iettatura, ricominciò a complimentarlo, additandolo come esempio al figliuolo. Il ragazzo, stordito un poco dal baccano, domandò: «Che cosa vuol dire deputato?» «Deputati», spiegò il padre, «sono quelli che fanno le leggi del Parlamento». «E non le fa il re?» «Il re e i deputati insieme. Il re può badare a tutto. E vedi lo zio come fa onore alla famiglia. Quando c'erano i viceré, i nostri erano viceré. Adesso che abbiamo il Parlamento, lo zio è deputato». Lucrezia trionfava. Benedetto veniva tutte le sere a farle la corte e fra 6 mesi sarebbe stato suo marito. Tuttavia questo consenso era così freddo che pareva strappato per forza, senza contare che Don Blasco e Donna Ferdinanda non venivano più a palazzo, che lo stesso Don Eugenio faceva il viso d'allarme al futuro nipote. Ma più i parenti si mostravano contrari al matrimonio, maggiori dimostrazioni d'affetto ella faceva a Benedetto. Non dar loro retta, sono tutti pazzi. Il giovane non aveva bisogno dei suoi consigli, giacché poneva ogni studio nel farsi accettare dai futuri parenti, sapendo che se avrebbe potuto fare un matrimonio migliore quanto a interesse, non ne avrebbe potuto fare uno migliore quanto a nobiltà. E i Giulente avevano la mania ad essere nobili, o perlomeno nobilitati dalla lunga serie di magistrati avuti in casa. Così, agli occhi della gente che non andava troppo per il sottile, erano considerati come nobili, e come nobili senza il titolo davano loro del cavaliere, ma i puri li tenevano a una certa distanza. Non fu molto difficile la conquista di Don Eugenio, che da principio affettava di non accorgersi di lui. Il giovane, indettato da Lucrezia, gli si mise a parlare di cose storiche e artistiche, dei viceré Uzeda, ascoltando a bocca aperta le sentenze del cavaliere. Il principe, dal canto suo, giovavasi del futuro cognato in altro modo. Il codice sardo aveva sostituito, nel maggio 1861, quello napoletano, e giudici, avvocati e litiganti ammattivano sulla nuova legge. Benedetto, un po' per amore allo studio, un po' per zelo patriottico, lo aveva sviscerato col suo maestro, e allora, discorrendo di questo e di quello, il principe induceva il giovanotto a istituire confronti fra i due testi, a indicarne le differenze e le concordanze. Certe volte, con l'aria di parlare in tesi generale, di casi immaginari o senza interesse, gli prendeva vere consultazioni legali. Una sera egli rammentò il canonico Giulente, fiorito nel secolo scorso, celebre per certe opere di diritto ecclesiastico, specialmente per il gran trattato del matrimonio. Raimondo, presente, pareva interessarsi a quel discorso. «Nuova è la trattazione», diceva Benedetto, «del capitolo sugli impedimenti, impedienti e dirimenti. Ho avuto per le mani molte opere sul soggetto, ma lo sviluppo, la ricchezza di testi e di commenti di questa sono davvero ammirabili». «Sì, sì», confermò per quella volta il cavaliere. «L'ho letta anch'io». «Come hai detto?» domandò Raimondo. «Impedimenti?» «Gli impedimenti e dirimenti sono quelli che annullano il matrimonio quando è già contratto». «E cioè?» «Se ne contano più di una dozzina, anzi 14 precisamente. Prima erano 12, poi il Concilio di Trento li aumentò di 2. Studiai queste cose tempo addietro. Oggi, semmai», aggiunse voltandosi verso Lucrezia, «piuttosto che gli impedimenti dovrei studiare le ragioni del sacramento magno». «Il sacramento?» fece Lucrezia, che era già nelle nuvole. «È esposto alla cattedrale». Qualche giorno dopo Raimondo ridomandò curiosamente al cognato: «E così non hai rammentato quali sono gli impedimenti dirimenti?» «Sì, ma non tutti», rispose Benedetto, che in presenza della promessa non voleva spiegar certe cose. E li disse in latino: «Error, conditio, votum, cognatio, crimen». «Basta, basta, è inutile, non capisco». E gli voltò le spalle. Però prima d'andar via, Benedetto lo chiamò da parte. «Non potevo spiegarmi dinanzi alle donne. Gli impedimenti sono questi». E li enumerò e li spiegò tutti in italiano. Domani, verso mezzogiorno, quando s'aspettava il barone che la carrozza di casa era andata a prendere, pioppe donna Ferdinanda. Erano più di 6 mesi che non saliva più le scale del palazzo, dal giorno che c'era entrato Giulente. Quando ella entrò nella sala gialla c'erano il principe e la principessa, don Eugenio, il duca, Lucrezia col promesso, Chiara col marchese e Raimondo che passeggiava come un leone in gabbia. Benedetto Giulente, appena la vide entrare, s'alzò rispettosamente. Ella gli passò dinanzi come se fosse uno dei mobili sparsi per la sala. Non rispose al saluto di nessuno, tranne a quello di Raimondo, che trasse in disparte verso una finestra. Tutti intorno gli altri parlavano piano, come nella camera d'un ammalato, ma al rumore di una carrozza che entrava nel cortile ogni discorso cessò. Il duca passò nell'anticamera per andare incontro all'amico. Si vide comparire invece dinanzi la cugina Graziella. «Come sta, Vostra Eccellenza? Ho saputo del suo arrivo e ho detto, andiamo subito a baciare le mani dello zio. Mio marito voleva venire anche lui, ma l'hanno chiamato di fretta al tribunale per una causa seccantissima». «Pazienza, pazienza!» cominciò il duca, ma già un'altra carrozza entrava nel cortile. «Raimondo?» esclamò il deputato disinvolto e conciliante. «C'è qui tuo suocero». Il conte s'era fermato. Senza cavar le mani di tasca, fece col capo un breve gesto di saluto e disse: «Come sta?» Palmi rispose: «Bene. Stai bene?» e salutò in giro gli astanti. Spuntò Don Blasco. Il monaco, come la sorella, non metteva piede al palazzo dal giorno del fidanzamento di Lucrezia. Come donna Ferdinanda ne aveva scagliata la colpa sul principe ed era rimasto talmente sordo ad ogni giustificazione che quest'ultimo s'era finalmente seccato di insistere, non avendo da sperare eredità come dall'altra. Le brighe del convento lo occupavano fino a un certo punto. Le grida e le bestemmie contro i liberali, quantunque raddoppiate dopo la sistemazione del nuovo ordine di cose, non gli bastavano. Non avevano gusto se egli non le proferiva a palazzo, nello stesso luogo dove erasi compito il trionfo di quel rinnegato del fratello, dove quel cialtrone di Giulente doveva vomitare le sue eresie. Il duca parve non accorgersi dell'arrivo del fratello. Per animare la conversazione languente e vincere la freddezza da cui tutti erano impacciati e rendersi utile, la cugina aveva cominciato a chiedergli notizie del suo viaggio attraverso l'Italia. E il deputato parlava a vapore. La baronda di Napoli, che paesone! Pareva che tolta la corte e i ministeri, tutto il movimento della capitale dovesse spopolarsi, ridursi come una città di provincia. Invece cresce ogni giorno, è più animata di prima. Anche Torino è piena di vita, però in modo diverso. In modo diverso, ripeté il barone con tono di condiscendenza, come per non restare in silenzio. È vero che somiglia a Catania? Domandò il marchese. Raimondo sciolse lo scilinguagnolo per dire con sottile ironia: tale quale, sai, come due gocce d'acqua. Le strade dice che sono tagliate allo stesso modo. Ma sì, anzi, diciamola tutta, Torino è più brutta, più piccola, più povera e più sporca. Entrò Baldassarre, grave e dignitoso come la solennità richiedeva. Eccellenza, disse al duca, ci sono le rappresentanze delle società che chiedono d'ossequiare vostra eccellenza. Il deputato non ebbe il tempo di rispondere che il barone s'alzò. Duca, fate pure, vi lascio libero. Ma no, restate, un momento, e torno subito. Ho qualcosa da sbrigare anch'io, grazie. Verrete almeno a pranzo con noi. Grazie, parto oggi stesso, ho fissato uno straordinario. Il duca, giù nell'amministrazione, riceveva i delegati dei sodalizi e una gran quantità di elettori influenti, e una vera processione d'ammiratori d'ogni condizione, che venivano a fargli atto d'omaggio. Thank you. quando la contessa Matilde tornò, dopo 2 anni di lontananza, tra i parenti del marito, essi medesimi, alla prima, non la riconobbero. Se era sempre stata pallida e magra, adesso era scialba e scarnita. Il petto le si affondava come se qualche male lento e spietato la rodesse. Le spalle le si incurvavano come per il peso degli anni, e gli occhi incavati, accerchiati di livido, lucenti di febbre, dicevano lo strazio di un pensiero cocente, d'una cura affannosa, d'una paura mortale. Quando ella ripensava a quei 2 anni trascorsi in Toscana, a tutto ciò che aveva sofferto, vedendo prepararsi e non potendo impedire l'ultima rovina, ella provava veramente come un bisogno di inginocchiarsi e di ringraziare il Signore. Tanto miracoloso le pareva il ravvedimento di Raimondo. Poteva adesso sperare che durasse. Quante volte egli non era parso rinsavito ed aveva poi fatto peggio. 2 anni addietro, prima che scoppiasse lo scandalo in casa dei Fersa, ella non aveva creduto che tutto fosse finito per lei. I suoi sospetti e le sue accuse gelose cadevano su quella donna soltanto. A Raimondo ella non rivolgeva se non preghiere indulgenti e l'umile scongiuro di evitarle nuovi dolori. Egli si infuriava, negava come altre volte, la incolpava di volergli creare imbarazzi e pericoli, la riduceva al silenzio con le tristi parole che ancora le risuonavano all'orecchio. «Quella donna è l'ultimo dei miei pensieri, ma se non la finite di vessarmi farò qualche pazzia, vedrete!» Ella non sapeva ancora fino a qual punto fosse sincero. Tutto ciò che nella sua gelosia la moglie gli veniva dicendo contro l'amante spingeva Raimondo sempre più nelle braccia di quest'ultima. Poiché Matilde gliene parlava male, voleva dire che era invece la prima delle donne. Quest'idea si conficcava tanto più saldamente nella sua testa, quanto che donna Isabella, dal suo canto, non gli diceva mezza parola contro la contessa. Si lagnava appena, discretamente, dell'odio che si vedeva portato. A Livorno, in principio dell'estate, lo scandalo era cresciuto talmente che alcuni buoni amici di Raimondo, il conte Rossi fra gli altri, suo padrone di casa, l'avevano consigliato d'essere meno imprudente. Matilde, il cui cuore sanguinava da tanto tempo, fu in quei giorni straziata da un altro dolore. Lauretta, che era sempre cagionevole, appena lasciato Firenze, cadde inferma. Il barone arrivò da Torino come un fulmine, prima che ella gli avesse dato notizia dell'accaduto. Ancora un altro tormento s'aggiunse ai tanti che la straziavano. Il rancore di suo padre contro il genero scoppiò a un tratto, terribile. «È andato via, meglio così!» E con un fiotto di parole crude, minacciose, frementi, le disse la vita indegna di lui, ciò che ella non sapeva ancora, ciò che egli stesso non aveva saputo per tanto tempo, addormentato dalla vanità, dal folle orgoglio d'essersi imparentato con uno dei viceré. In casa del principe, adesso, dove erano venuti per il matrimonio di Lucrezia, lasciando a Milazzo le bambine, i parenti di lui la trattavano meglio. La sposa, che pareva non capire nei panni per l'imminenza del matrimonio, le prodigava dimostrazioni d'affetto e non si lasciava guidare da nessuno fuorché da lei nella scelta degli abiti e degli ultimi oggetti del corredo. La principessa, sempre timida e mite, le dimostrava più di prima la propria simpatia. Quanto a Don Blasco e a Donna Ferdinanda, che avevano ripreso a venire tutti i giorni a palazzo, parevano anch'essi un poco placati, perché invece di punzecchiarla non le badavano affatto. Che le importava? Erano così. Bisognava prenderli com'erano. Purché Raimondo non la lasciasse un'altra volta. Purché quei giorni tremendi dell'abbandono non ritornassero. Thank you.